a Rock FM, 8:01. Eccola la colazione. Pane, burro e rock and roll. Buongiorno anche a voi appena svegliati. La tua colazione rock. Strombazzate. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allora, da un paio di settimane stiamo raccogliendo le iscrizioni di SMS per partecipare al provino per diventare musicisti rock con la bocca. È passato un promo anche qualche minuto fa. Non passa giorno che qualcuno non lo commenti e ogni giorno mi stupisco sempre un po' di più. Tra l'altro anche quest'oggi sentiremo, presumo, un provinante, se facciamo a tempo nell'ultima mezz'ora. Saluto e ringrazio l'amica Nora che si iscrive al provino per diventare musicista rock con la bocca, però non si limita a scrivere rock con la bocca sì. Ci scrive rock con la bocca sì, ma non solo. Guarda che siete scemi, eh. Comincia il territorio romano! Fermatevi! Non si passa! Chi siete? Barbari! Che cosa volete? Distruggere Roma! Dove passo io non cresce più l'erba, caro! Ma tu come ti chiami? Attola! Come? Attola! Come? Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete in attributi handicappati? A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lac di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Potete balam! Potete balam! What it means. For Your Loving, Whitesnake. Allora, abbiamo svelato anche il film che ci terrà compagnia, o meglio, l'attore che ci terrà compagnia fino a venerdì. La redazione ha selezionato parecchi interventi della Battantuono Terruncello, che ci terrà compagnia un paio di volte al giorno fino a venerdì. Saluto anche al patentato Andrea 147, che mi ha un po' tanato, mi ha sgamato. Oggi si è messi male, caro Ariele, un filo sì, e chiedo di nuovo scusa agli amici là fuori. È un problema di weekend un po' troppo lungo che prosegue alle 8.07 del mattino. Ma non mi preoccupo, perché ci siete voi là fuori a Dan Manforte, a questa trasmissione radiofonica all'alba del 19 novembre. Iniziamo a preoccuparci, perché sembrano poche le luminarie natalizie in giro per la città. Stessa impressione che ha Sab, i nostri occhi sulla città di Firenze. Se la gira col pullman, chi meglio di lei può aiutarci? Bentornata a Rock FM, Sab, come va? Bene, abbastanza bene, sì. Anche tu, è strano che ne mettano così poche. Ma di solito cominciano più tardi, quest'anno sono un po' in anticipo, di la verità. Ma dici che si stanno inventando qualcosa? Cioè, c'è sotto dell'osco o no? Non c'è pochi soldi in giro. Ci dici che è solo quello? Sì, è solo quello. Non è un grande complotto contro di noi? No, ma penso di no, dai. Pensi di no? Chiederemo poi anche al tassista Tino. Ecco. Senti, chi è che grida 12 là dietro? Un collega, sto cercando il cambio. Senti, Sab, aggiornaci sul capoluogo toscano. Allora, senti, le solite stelle dell'altra settimana l'hanno messa in piazza Dalmazia, sì. Poi in una parte di via Reginaldo Giuliani e in via Corridoni, sì. E poi, senti, in centro hanno messo in via della Condotta e in via Cor Santa Maria i festoni verdi con le fasce argentate intorno. Ma secondo me devono completare, perché ho visto sono in parte addobbate. Questo lo dici? Ci sarà qualche altra cosa in più, spero, almeno, perché così sono orribili. È perché sembrano schifose così, o sei certa che devono ancora finirle? No, penso, dai, perché penso. Il centro è piccolo, però anche abbastanza grande, ancora non l'hanno addobbato tutto, e quindi io spero mettino qualcosa in più, sinceramente, perché così sono proprio brutte. Sab, guarda, ti diamo ragione in ogni caso. Posso parlarti di un'altra grossa preoccupazione che ho? Sì. I Babbo Natale appesi alle finestre. No, non li ho visti quest'anno, per fortuna. Sab, qua c'è qualcosa che non va, secondo me c'è sotto un complotto, perché non possono non esserci, anche qui a Milano non ci sono ancora. Cosa sta succedendo? Non lo so. Io spero non li mettano davvero, perché sono proprio brutti. Non è che il mondo è diventato tutto rock e hanno tolto il Natale e non ce l'hanno detto? Speriamo, è diventato tutto rock. Scusa. Mannaggia. Sab, grazie mille. No, aspetta, non mi ha finito. Ne hai aia, va bene, scusa. Due strade, pazienza. Prosegui. Sono via Fascinotti e via delle 100 Stelle. Allora, via Fascinotti hanno messo una cosa un po' particolare. Ah, questa sembra ti piaccia, da come stai. No, non tanto, la verità. Però dico lo stesso. Vai. Allora, praticamente hanno messo i festoni con le lucine da un lato all'altro della strada, e poi alternate una volta a destra, una volta a sinistra, delle palle giganti, che sono una cosa orribile. Giganti quanto, Sab? Ma saranno un 40 centimetri di diametro più o meno. Sono proprio brutte. Bah, questa immagine delle palle giganti su Firenze mi piace. Un filo mi piace. Solo detta mi piace. Dovresti vederle, perché sono proprio brutte. Dovrei vederle. Senza luci, solo palle. Sì, no, ci sono le lucine, però ancora non l'hanno accesa. Ah. Però si vede questa palla, con questo filo nel mezzo. Tipo è la palla di Natale. Quella dell'albero. Sarebbe la palla di Natale, però vabbè, la vedi, si fa pensare a altre cose, vabbè, lasciamo perdere. Poi in via delle 100 Stelle, questo è molto carino, perché c'è il solito festone con le lucine da un lato all'altro della strada, sì. E poi al centro c'è una stella gigante in tre dimensioni. Come? Ovvero, aspetta, c'è una sfera centrale vuota con tutte le lucine, e intorno ci sono i raggi. Sì. Sembra più un sole, sai, quelli che disegnano bambini, però è molto carino. È la cosa più carina che ho visto in tutta Firenze, della verità. Senti, fino a oggi Firenze era indietro, direi, con l'intervento di oggi. Ci siamo ripresi un pochino. Con me hai ripreso Milano. Dopo proviamo a vedere se c'è in giro Tino il tassista che ci dice lui, ma così, insomma, c'è stata il rush finale, no? La corsa finale. Sì. Poi spero che mettano qualche altra cosa, specialmente in centro, ma dovrebbero mettere qualche altra cosa. No? Perdonami, Sab, queste segnalazioni le hai fatte a memoria o ti hai riappuntato tutto? Mi sono segnata, sono un po'. Brava, si capiva. Perché si se sente no, l'impegno. Sab, grazie mille. Grazie, un abbraccione, a presto, a buon proseguimento sul pullman. Grazie mille, ciao. sembrano solo pure volgarità quelle che proferisce il maestro Roberto Fricantoni, ma mi permetta di difenderlo, è sotto il vessillo della cultura che le parole che escono dal suo sterno trovano la realtà, trovano il giusto modo di essere interpretate. Stava ridendo della sua stessa iperbole. Mi sembrava un po' troppo larga, ma l'ho presa per fortuna. Mi piace il suo senso dell'autironia. Anche quando è mal riposto, come in questo caso, DJ Ariele, non rida della cultura rock. No, tante le cose che combiniamo a pane, burro e rock and roll. Una che se la fa e se la conta da solo Roberto Fricantoni, ovvero la rubrica delle parole ribelli, un vocabolario composto solo da parole rock. Sì, sì, vocaboli contro, vocaboli in trincea, vocaboli diversi, vocaboli di tutto il mondo, uniamoci! No, aspetta, si tranquillizzi e la prego di dirci con calma il vocabolo di quest'oggi. La parola ribelle di quest'oggi è un termine che usiamo spessissimo qua negli studi di Rock FM, sì, ed in particolare qua nella redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. L'aggettivo sbellicare. Ah, come sbellicarsi dalle risate. Infatti, che però, studiando vocabolari su vocabolari, enciclopedie su enciclopedie, le fanno male, troppe enciclopedie, se ne rende conto? Sì, anche perché quando arrivano sul cranio fanno male, hanno il loro peso. Va bene. Sbellicare, dicevamo, la prego, via. Sbellicare è una parola in uso dal 1704. Bene. Letteralmente rompere l'ombelico. Che ridendo tanto uno spacca, esatto, l'ombelico. Esatto, sì. Sbellicarsi dalle risa, cioè ridere talmente forte e smodatamente quasi da rompersi l'ombelico. Non faccia gesti, l'ho capito benissimo. Da bellico, che sarebbe ombelico, bellico, ombelico, sbellicarsi. Ma bellico non è anche un po', scusi, latinismo da guerra? Ma infatti l'ho scelto apposta perché è senz'altro una parola sempre in pista, sempre in trincea, sempre ribelle, una parola da battaglia. Avrei tanto voluto saperlo e grazie a Frick ora lo so, grazie. Prego, si sbellichi, ne ha tutto il diritto. E che c'è? Woman to take his seat, he got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man, she feeds him dinner, oh, anything she can. She cries at all, only women bleed, only women bleed, only women bleed. Man makes your hair gray, he's your life's mistake, all you're really looking for's an even break. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Possono fare anche gli archi con la bocca, perché no? Si può fare tutto, basta scegliere uno strumento e lo fai, no? Only Women Bleed, Alice Cooper, pane, burro e rock and roll, ed è subito amore. Pane, burro e rock and roll, un abbraccio e strombazzata ad Alex Firenze. In coda per la disoccupazione, un freddo boia, senza aver dormito, per essere tra i primi. Occhi che guardano il chiodo d'ordinanza, come se fossi un alieno, anche questo è rock! Bravo Alex, resisti! Poi col tuo chiodo starai anche più al caldo degli altri, o forse no, boh, vabbè. Un saluto anche ad Adami92, il nostro quindicenne di riferimento, che spero di farvi sentire prossimamente in diretta. Vedo molti commenti positivi alla scelta della redazione di tenervi compagnia con Abbatantuono nel corso di questa settimana, mentre sono costretto a ricordarvi la nostra nuova iniziativa Diventa un musicista rock con la bocca. Non temere, anche tu puoi esserlo, anzi lo sei già. Hendrix, Santana, Clapton, beh, loro sono maestri della chitarra. Amici, fidatevi di noi, voi non diventerete mai come loro, o meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare la chitarra con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare chitarristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un sms al 335 100 7777 con la scritta rock con la bocca. Sì, sì, non perdete l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Tra pochissimi istanti l'appuntamento con il test attitudinale di Rock FM, di pane, burro e rock and roll. Scopri in diretta se sei un vero rocker oppure no, grazie al nostro test e alle possibili tre risposte. Intanto rilassatevi, prendetela comoda con i Van Halen. là fuori, sei un rocker oppure no? Sì, da oggi hai la possibilità di scoprirlo. Beh, come? Un po', con il test attitudinale di pane, burro e rock and roll. Ogni giorno, 2 punti per la tua patente da vero rocker, se azzecchi oppure studia. E oggi qual è il test attitudinale? Torniamo a parlare di Radiohead, gli inglesotti Radiohead. Forse non tutti sanno che originariamente si chiamavano On a Friday, ovvero il venerdì. Il venerdì. Infine, in riferimento al giorno della settimana in cui il gruppo si riuniva per la prove, nell'aula di musica della scuola. Senta che teneri, eh? Fu la Amy in persona a chiedere alla band di cambiare nome e per l'appunto decisero di chiamarsi Radiohead. Ma sapete da cosa deriva il nome che li ha resi celebri? Ipotesi A. È il titolo di una canzone dell'album dei Talking Heads intitolato True Stories. È forse la soluzione giusta? Ipotesi B. Radiohead era il soprannome del compagno di scuola dei componenti della band, così chiamato perché non si presentava mai senza un grosso stereo appoggiato sulla spalla. Da qui appunto l'appellativo testa di radio. È forse questa la soluzione giusta oppure... Soluzione C. Radiohead è il titolo di un racconto di Isaac Asimov, uno degli scrittori di fantascienza preferiti dal cantante Tom York. La A, la B o la C? Restate con noi, la soluzione come al solito ve la diamo fra poco, la risposta esatta a subito dopo.